le vecchie strade del quartiere più affollato, verso mezzogiorno oppure al tramontare. Una fisarmonica, un violino, un po' stonato, capita assai spesso ad ascoltare. Accompagnano un cantante d'occasione che per poco niente canta una canzone. È una semplice canzone da due soldi che si canta per le strade dei sobborghi e risveglia in fondo all'anima i ricordi d'una dolce spensierata gioventù. È una semplice canzone per il cuore, poche note con le solite parole, ma c'è sempre chi l'ascolta e si commuove, ripensando al tempo che non torna più. Si vede aprire piano piano qualche finestra da lontano, c'è chi s'affaccia ad ascoltare e sospirare. È una semplice canzone da due soldi che si canta per le strade dei sobborghi, per chi spera, per chi ama, per chi sogna, è l'eterna dolce storia dell'amore. Il suo motivo l'indomani che 100 orchestre suonerà, vestito di mondanità, ovunque andrà. Ma la semplice canzone da due soldi finirà per ritornare dove è nata, per la strada su una bocca innamorata che cantando sogna la felicità. Canzone da due soldi, due soldi ripetuti.